Fox 24, la storia. È bufera sulla FIFA di Blatter, arrestati 7 alti dirigenti, l'accusa è corruzione. Come le tessere di un domino, le alte cariche FIFA sono cadute sotto il peso delle prove che le indagini dell'FBI hanno prodotto. Torno allo scandalo FIFA, va in scena una nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. Putin accusa gli americani. Gli arresti di questi giorni ci sono sembrati molto sospetti. Questo è l'ennesimo sfacciato tentativo degli americani di estendere la loro giurisdizione su altri stati. È una grave violazione dei principi delle organizzazioni internazionali. Scandalo FIFA, Blatter promette pulizia ma non le dimissioni, resto presidente e sistemo tutto, dice Platini disgustato, invita l'Europa a votare il principe Ali. Sono veramente disgustato. Écœuré, oggi de démissionner de la FIFA, de ti chiederò FIFA, di dimetterti. È bastata una settimana per far crollare il numero uno della FIFA, Sepp Blatter. Blatter annuncia le dimissioni da presidente della FIFA e successore in un congresso straordinario che verrà convocato fra dicembre e marzo del prossimo anno del 2016. Il mio profondo attaccamento alla FIFA e ai suoi interessi, interessi che mi sono molto cari, che mi hanno portato a prendere questa decisione. Quello che conta non sono io, ma è l'istituzione FIFA e il calcio mondiale. E quello che si è abbattuto sul calcio mondiale è un nuovo grande scandalo. Con gli arresti, l'abbiamo sentito, per corruzione dei più alti dirigenti della Federcalcio Mondiale, l'FBI ha alzato il velo su 25 anni di malaffare, di tangenti e di assegnazioni pilotate dei mondiali. Un caso che sta dividendo il mondo dello sport e non solo quello. L'ultimo atto, la dimissione di Blatter, un clima che sembra riportare indietro agli anni della guerra fredda, quando per più di mezzo secolo lo sport è stato uno dei terreni sui quali si è svolta la partita tra le due grandi potenze, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Allora noi oggi su Mix24 vi proponiamo un racconto fatto di retroscena politici, amori contrastati, battaglie per i diritti umani all'ombra dello sport. Il nostro racconto attraversa 40 anni di sport, dal 1948 fino ai giochi di Barcellona del 92, dopo il crollo del muro di Berlino, attraverso gli eventi sportivi più critici che hanno segnato anche la storia della diplomazia internazionale, ieri come oggi. Un podio, l'inno nazionale, la bandiera, è la liturgia magica delle Olimpiadi moderne. 1936. Hitler trasforma i giochi olimpici di Berlino in una micidiale macchina per la propaganda del regime nazista. Unico neo, il più forte atleta americano è di colore, Jesse Owens. Vince 4 ori in un solo giorno. Per Hitler è uno smacco. A raccontare quanto di politico c'è nelle Olimpiadi è lo storico Alfred Henriksen. Si è parlato molto del ruolo di Hitler in quelle Olimpiadi. A me piace invece ricordare che 4 anni prima, in occasione delle elezioni americane, il presidente Robert Hoover decise di non sfruttare l'apertura dei giochi di Los Angeles del 32 e poi non venne rieletto. Hitler invece aprì i giochi di Berlino e si fece una grande propaganda. Forse è per questo che nel 1984 non si riuscì a tenere Ronald Reagan lontano dai giochi di Los Angeles nemmeno con la forza. Insomma, le Olimpiadi vengono incorporate nelle campagne elettorali. È soprattutto nel secondo dopoguerra che il connubio sport e politica impegna i giochi olimpici. Dopo il 45, infatti, fa la sua apparizione sulla scena sportiva internazionale l'Unione Sovietica, patria del comunismo e nuova superpotenza che contende ormai il dominio del mondo agli Stati Uniti. Stalin in persona decide di spezzare l'isolamento in cui si è venuto a trovare e lancia la sua sfida allo sport capitalistico. La guerra fredda tra Est ed Ovest si trasferisce così sui campi di gioco, trasformando la classica competizione fra atleti in un'inedita e accesa rivalità fra nazioni. Così la ricostruzione dello storico Valery Steinbach. L'Unione Sovietica venne così invitata alle Olimpiadi di Londra del 1948. Fosse stato un paese normale, ci si sarebbe chiesto semplicemente se accettare o meno. Stalin invece chiese ai suoi: siamo in grado di andare e vincere? E soprattutto, siamo in grado di battere gli Stati Uniti? Nessuno volle assumersi la responsabilità di dire sì. E quindi l'invito del Comitato Olimpico venne respinto, rimandando a un futuro prossimo il debutto della squadra sovietica.

all'inizio degli anni 70 a spianare la strada al lavoro del segretario di Stato Henry Kissinger. È quella che passerà alla storia come la diplomazia del ping pong. Racconta così lo storico Alfred Sen. Nelle relazioni internazionali lo sport è un'arma neutra e le varie nazioni usano quest'arma per dare dei segnali, positivi o negativi, e per approvare o disapprovare i segnali che vengono dalle altre nazioni. Quei giocatori di ping pong non erano uno strumento in sé, ma lo divennero perché entrambe le parti stavano cercando di migliorare le loro relazioni. Alle Olimpiadi del 1980 la Germania dell'Est si conferma grande potenza sportiva piazzandosi al secondo posto del medagliere. Ma quella di Mosca è un'Olimpiade zoppa, dimezzata, che vede presenti solo 80 delegazioni. Mancano gli Stati Uniti e con loro la Cina, il Giappone, il Canada, la Germania occidentale. In totale sono 60 nazioni unite in un clamoroso boicottaggio per protestare contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Allo stesso modo, Los Angeles, stesso copione, a parti inverse. 16 paesi del blocco comunista boicottano i giochi. All'appello mancano infatti più di 100 campioni mondiali in carica, dei quali 22 solo nell'atletica leggera. Barcellona, Giochi Olimpici 1992, è il trionfo del professionismo. È finita un'epoca, e non solo nel mondo dello sport. Solo 6 mesi prima, Mikhail Gorbaciov ha annunciato la dissoluzione dell'Unione Sovietica. A Barcellona, per la prima volta, sfila il nuovo ordine mondiale. La Germania è di nuovo unita e non sventola più la bandiera russa dell'Unione Sovietica. Massimo Gaggi, inviato negli Stati Uniti per il Corriere della Sera. Ci risiamo. Il caso Blatter e la corruzione nel mondo della FIFA è di nuovo guerra fredda nello sport o è un semplice caso di corruzione? Beh, più che un semplice caso di corruzione, direi che è un caso di corruzione endemica di cui si parlava a mezza bocca da molti anni e che nessuno non era mai riuscito a trovare e che un intervento massiccio della magistratura americana ha fatto emergere con conseguenze deflagranti. Ora, se la spinta sia stata in parte anche politica, io non sono in grado di stabilirlo, forse non lo è nessuno, ma sicuramente, stando ai fatti, il materiale investigativo per arrivare a queste conclusioni qui ce n'era e ce n'era anche in abbondanza. Quindi potrebbe essere una doppia cosa, nel senso che anche una strategia degli Stati Uniti per bloccare i mondiali in Russia nel 2018 e poi in Qatar 2022. Io non credo che ci siano più i tempi tecnici per bloccare i mondiali del 2018, non vedo quale altro paese potrebbe organizzare. Non sono a rischio quindi secondo te? Secondo me è molto difficile che possano essere spostati, è pressoché impossibile trovare un altro paese in grado di un anno di organizzare i mondiali, ammesso che poi ci fosse immediatamente una decisione, una selezione, una scelta di un altro paese, cioè mi sembra una cosa di una complicazione inaudita, quindi non credo che... In quel caso, come spesso è capitato, poi lo sport deve andare avanti. In qualche modo sì, poi è chiaro che può restare una macchia, perché se verrà fuori comunque che anche i mondiali sono stati comprati, come è probabilmente vero, nel senso che sta venendo fuori, come vedete, che non solo quelli del Sudafrica, ma probabilmente anche quelli della Francia del 98 sono stati comprati, che il giro di soldi c'è sempre stato. Era un sistema collaudato, diciamo. Leggevo che gli avvocati dei delegati del Qatar stanno consigliando ai delegati del Qatar di non andare negli Stati Uniti perché rischiano di essere arrestati, quindi vuol dire che si immaginano che l'inchiesta americana presto arrivi anche... Già è arrivata lì. Ai mondiali del Qatar. Ma come è accolta questa inchiesta dell'FBI negli Stati Uniti? Beh, non è che ci sia un interesse enorme, il calcio non è lo sport più popolare negli Stati Uniti e l'abitudine della magistratura americana di muoversi con molta pesantezza utilizzando le minacce di arresto per far confessare i complici, arrivare attraverso, diciamo, i livelli intermedi fino ai livelli più alti delle responsabilità è abbastanza abituale per l'FBI, quindi quello che ha colpito è che si sono esposti in questa inchiesta in prima persona il ministro della giustizia e il capo dell'FBI, quindi hanno voluto dare il massimo peso. Ma come mai secondo te? Ma per due motivi, uno perché probabilmente c'è anche una volontà di dare un segnale in qualche modo politico, che non so se sia quello della guerra fredda con Putin, certamente c'è la volontà anche in questo caso di sottolineare la superiorità del sistema etico americano. americano della capacità di correggere le storture rispetto ad altri paesi che questo non l'hanno fatto, rispetto alla Russia che viene presentata come un paese dittatoriale e corrotto. Però c'era anche un dato oggettivo, cioè Loretta Lynch, che è appena diventata ministro della giustizia, era stata fino a non molto tempo fa procuratrice proprio di questo tribunale di Brooklyn, che si sta occupando il Southern District di Manhattan, che ha avuto in mano questa inchiesta, cioè, aveva gestito lei i pentiti, aveva gestito lei la prima fase di questa cosa, che è cominciata nel 2013, quindi lei sicuramente in prima persona ha fatto interrogatori, ha seguito questo pentito, eccetera, quindi la vive probabilmente come una cosa abbastanza sua. Massimo Gaggi, ma non è un po', forse lo accennavi prima, non è un po' la scoperta dell'acqua calda? La scoperta dell'acqua calda, noi nel 92 abbiamo avuto Tangentopoli, anche quella era la scoperta dell'acqua calda, perché che i politici fossero corrotti lo sapevano tutti, però quando a un certo punto una magistratura ha preso in mano le cose, ha dimostrato fatti alla mano che dei politici con nome e cognome, dei partiti con nome e cognome avevano commesso dei reati ben identificati, e crollava un sistema politico, per cui l'acqua calda a un certo punto va anche fatta defluire. In questo caso l'acqua calda ha consentito a Blatter di restare al potere, nonostante che tutti lo considerassero un corrotto, per decenni. 20 anni, esatto. Scoprendo l'acqua calda, adesso gli americani l'hanno mandato a casa. Questa, tra l'altro, a questo momento, se mi consenti la battuta, sarà forse la principale identità politica di Barack Obama, che non è riuscito a fare tante cose che aveva in programma, dalla pace fra israeliani e palestinesi a tante altre cosette. E questa invece è la storia per il presidente che ha cambiato il presidente del calcio mondiale. Esatto. Bene o male è sempre lo sport più popolare del mondo, non in America ma nel resto del mondo, sì. Ecco, appunto, ma per il mondo del calcio questa inchiesta può rappresentare l'anno zero? A questo punto ammesso che Blatter effettivamente se ne vada, perché mi pare che rimane come reggente fino alle prossime elezioni e che non lasci i suoi eredi, probabilmente sì, perché in qualche modo le cose cambieranno. Non so quanto, perché da quello che sta emergendo il sistema è profondamente corrotto e tutti i suoi meccanismi sono abbastanza corrotti, quindi cambiare non sarà, credo, facilissimo, visto che il sistema di complicità è molto esteso, quindi ci dovrebbe essere un repulisti generale anche a livello di federazioni locali. Probabilmente questo sarà più facile in Europa, meno in altre parti del mondo dove la corruzione è più endemica anche nei sistemi politici. Per esempio dove? Insomma, non sarà un caso se l'Asia e le federazioni africane hanno continuato a votare in blocco Blatter l'altro giorno, nonostante tutto quello che è venuto fuori e il fatto che l'Europa si era tirata indietro. Grazie. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Rachele Bonanni, Gloria Guerrera, Manuel Guerrini, Antonio Miragliotta, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. We'll